Maria Santissima prepara i pannicelli e le fasce per il bambino divino, con l'ardentissimo desiderio di vederlo già nato. La divina gravidanza della madre del Verbo Eterno era già molto inoltrata. Ella sapeva, nella sua prudenza, che era necessario preparare i pannicelli e tutto l'occorrente per il parto tanto atteso. Tuttavia, nulla volle disporre senza la volontà del Signore e del suo sposo, per adempiere in tutto la legge divina, come serva obbediente e fedele. E sebbene avrebbe potuto operare da sé quello che era esclusivo compito di madre, tuttavia non lo fece senza prima parlarne allo sposo Giuseppe. Signore mio, è già tempo di preparare le cose necessarie per la nascita del mio santissimo figlio. E sebbene Sua Maestà Infinita vuole essere trattato come i figli degli uomini, umiliandosi a patire le loro pene, da parte nostra è giusto che nel servirlo lo riconosciamo come nostro vero Dio, Re e Signore. Se mi date il permesso, incomincerò a preparare le fasce, i pannolini per avvolgerlo. Io ho una tela filata con le mie mani, può servire ora per i primi pannolini. Voi ne procurerete un'altra di lana, soffice, morbida, di colore modesto, per formarne altri. E in futuro gli farò una tunica, a lui adatta. Affinché compiamo ciò nel modo giusto, eleviamo una speciale orazione. Chiediamo a Sua Altezza che ci illumini, ci guidi, ci manifesti la Sua divina volontà, in modo da procedere con il Suo maggiore compiacimento. Rispose San Giuseppe. Sposa e signora mia, se con lo stesso sangue del cuore fosse possibile servire il mio Dio e Signore ed eseguire ciò che comandate, mi riterrei soddisfatto e fortunato di spargerlo con atrocissimi tormenti. In mancanza di ciò vorrei possedere ricchi tesori, broccati, per potervi servire in questa occasione. Disponete dunque quello che sarà conveniente, perché in tutto voglio ubbidirvi come vostro servo. Dopo che ebbero pregato insieme, l'Altissimo rispose a ciascuno, in disparte, con le medesime parole, ripetendo quanto più volte aveva manifestato alla sovrana signora. Io sono sceso dal cielo sulla terra per innalzare l'umiltà ed umiliare la superbia, per onorare la povertà e disprezzare le ricchezze, per abolire la vanità e dare fondamento alla verità, e per conferire degna stima ai travagli dell'uomo. Perciò è mia volontà che nell'umanità da me assunta mi trattiate all'esterno come se fossi vostro figlio, e all'interno mi riconosciate invece come figlio dell'Eterno Padre e vero Dio, con la venerazione e l'amore che come uomo e Dio mi sono dovuti. Maria Santissima e San Giuseppe, rafforzati da questa divina voce nella sapienza con la quale dovevano allevare il bambino Dio, concertarono fra loro il più nobile e perfetto modo di venerarlo come vero Dio infinito e di trattarlo allo stesso tempo agli occhi del mondo come se egli fosse loro figlio. Tale lo avrebbero creduto gli uomini, come il Signore stesso voleva. Adempirono così pienamente questo accordo con meraviglia per il cielo. Stabilirono che nel loro stato di povertà era conveniente rendere ossequio al bambino Dio, per quanto fosse possibile, senza eccedere né lesinare, affinché il mistero del re restasse celato sotto il velo dell'umile povertà e il loro infiammato amore non venisse defraudato in ciò che eseguivano. Subito San Giuseppe, come contraccambio di alcuni lavori fatti con le sue mani, si fece dare due tele di lana, conforme a quanto aveva detto la Divina Sposa, una bianca e l'altra di colore più sfumata sul bruno che sul grigio, le migliori che poté trovare. La Divina Regina tagliò con queste i primi pannolini per il suo Santissimo Figlio. E con la tela che aveva filato, tagliò le camiciole e i panni per avvolgerlo. Era questa tela molto delicata, veramente uscita da tali mani. Ed ella la iniziò a filare dal giorno in cui entrò in casa sua con San Giuseppe, col proposito di portarla in offerta al Tempio. Questo suo desiderio si cambiò in un altro migliore. Con la tela che avanzò, preparato l'occorrente per il divino bambino, poté compiere l'offerta al Tempio Santo di Gerusalemme. La Vergine Santissima cucì con le proprie mani tutto ciò che era necessario per il parto divino. Cucì rimanendo sempre genuflessa e versando lacrime di incomparabile devozione. San Giuseppe cercò i fiori e le erbe aromatiche che poté trovare e con questi la diligente madre preparò un'acqua dal profumo angelico, asperse le fasce consacrate per la vittima in previsione del sacrificio. Le piegò, le assestò e le pose in una cassettina che portò poi con sé a Betlemme. Viene pubblicato l'editto dell'imperatore Cesare Augusto per censire la popolazione di tutto l'impero. La condotta di San Giuseppe quando ne venne a conoscenza. Fu stabilito dalla volontà immutabile dell'Altissimo che il suo figlio unigenito dovesse nascere nella città di Betlemme. Questo decreto divino era stato predetto molto tempo prima di adempirsi, dai santi e dai profeti dell'Antico Testamento. La volontà del Signore è sempre infallibile. Passeranno i cieli e la terra prima che possa avere compimento, giacché nessuno può opporvisi. Il Signore dispose l'esecuzione di questo decreto per mezzo di un editto pubblicato dall'imperatore Cesare Augusto nell'impero romano affinché, come riferisce San Luca, fosse enumerata e registrata tutta la popolazione del mondo. Si estendeva allora l'impero romano per gran parte della terra conosciuta e perciò i suoi principi si chiamavano signori di tutto il mondo, non tenendo conto del resto. Tutti gli abitanti dovevano ritenersi vassalli dell'imperatore, tributargli un determinato censo dovuto al naturale signore del potere temporale. Ciascuno si recava ad iscriversi nel registro comune della propria città. Giunse questo editto a Nazareth. E la notizia arrivò anche a San Giuseppe, il quale, tornando a casa perché l'aveva intesa mentre stava fuori, afflitto e mesto, diede spiegazione alla divina sposa sul contenuto e la novità dell'editto. Ma la prudentissima Vergine rispose: «Non vi turbi l'editto dell'imperatore terreno. Tutti i nostri eventi stanno a cuore al Signore, Re del cielo e della terra. La sua provvidenza ci sosterrà. Ci verrà incontro in ogni circostanza. Rimettiamoci a Lui, pieni di confidenza. Vedrete che non saremo delusi». A Maria Santissima erano noti tutti i misteri del Figlio. Conosceva inoltre le profezie e il loro compimento. L'unigenito del Padre e suo doveva nascere a Betlemme come povero pellegrino, straniero. Comunque, nulla di tutto questo ella manifestò a San Giuseppe, perché senza l'ordine del Signore non avrebbe mai svelato il suo segreto. E su tutto ciò che non le veniva comandato di dire, taceva assennatamente, perché nonostante nutrisse il desiderio di consolare il suo fedelissimo sposo, voleva abbandonarsi obbediente alla guida di Dio e comportarsi come donna prudente e saggia. Discussero subito su ciò che dovevano fare, perché già si approssimava il parto della Divina Signora. San Giuseppe disse: «Signora mia, se non avete ordini diversi dall'Altissimo, mi pare opportuno che vada io ad adempiere questo editto dell'imperatore. Potrei anche andarvi solo. L'esecuzione di tale dovere compete ai capi delle famiglie. Ma non ho il coraggio di lasciarvi senza assistenza. Né io posso vivere senza la vostra presenza e avere un momento di quiete standovi lontano. Non è possibile che il mio cuore stia tranquillo senza vedervi. D'altra parte, mi sembra impossibile che voi possiate venire con me a Betlemme e eseguire l'ordine dell'imperatore. È vicino il tempo del divin parto. Non oso esporvi ad un rischio così evidente. Il mio dolore e la mia afflizione sarebbero così indicibilmente grandi se qualche disagio vi accadesse durante il viaggio e io non fossi lì a soccorrervi. Questo pensiero mi tormenta. Vi supplico di presentare ciò al cospetto dell'Altissimo, di pregarlo che ascolti il desiderio di non separarmi da voi». L'umile sposa accondiscese a ciò che San Giuseppe le chiedeva e, benché non ignorasse la volontà divina, accettò di obbedire a questa richiesta. Presentò al Signore la volontà e i desideri del suo sposo e Sua Maestà rispose: «Amica e colomba mia, obbedisci al mio servo Giuseppe in quello che desidera. Accompagnalo nel viaggio, io sarò con te, ti assisterò con paterno amore nei travagli e nelle tribolazioni che per me soffrirai. Saranno molto grandi, ma il mio braccio onnipotente ti aiuterà a venirne fuori in modo glorioso. I tuoi passi saranno belli agli occhi miei. Non temere, mettiti in cammino. perché questa è la mia volontà. Immediatamente il Signore, davanti agli occhi della Divina Madre, intimò ed ordinò ai santi angeli protettori che la servissero in quel viaggio con speciale assistenza e diligente sollecitudine, conformemente a quanto di mirabile e di misterioso sarebbe potuto accadere. Oltre ai 1000 angeli che abitualmente la custodivano, il Signore comandò ad altri 9000 di assistere la loro regina e signora e di servirla, in modo che fin dall'inizio del viaggio l'accompagnassero tutti e 10000 insieme. E così avvenne. Tutti, come fedelissimi servi e ministri del Signore, la servivano. La celeste regina fu preparata e corroborata da una nuova luce divina in cui conobbe i misteri dei travagli che l'attendevano dopo la nascita del bambino, a causa della persecuzione di Erode e di altre preoccupazioni e tribolazioni che sarebbero poi sopravvenute. Ella offrì per tutto ciò il suo invitto cuore, senza alcun turbamento, e rese grazie al Signore per le meraviglie che lei operava e disponeva. Così la gran regina del cielo ritornò con la risposta a San Giuseppe. Gli rivelò che era volontà dell'Altissimo che ella gli prestasse obbedienza e l'accompagnasse nel suo viaggio a Betlemme. Lo sposo rimase pieno di nuovo giubilo e di consolazione. E riconoscendo questo gran favore dalla mano del Signore, lo ringraziò con profondi atti di umiltà e di riverenza. Poi, parlando alla sua sposa, disse: «Signora mia, causa della mia gioia, della mia felicità e della mia fortuna, mi rimane solo la sofferenza dei travagli che in questo viaggio dovete patire. Non ho mezzi per eliminarli. Non ho mezzi per rendervi il viaggio comodo. Però a Betlemme troveremo parenti, conoscenti, amici della nostra famiglia e spero che lì saremo accolti con carità, cosicché possiate ristorarvi dalla fatica del viaggio, se l'Altissimo così dispone». Giuseppe, in cuor suo, si augurava che le sue attese si avverassero, ma il Signore aveva disposto diversamente. Proprio perché rimasero frustrati i suoi desideri, provò poi maggiore amarezza. Maria Santissima non palesò a Giuseppe quello che ella, illuminata dal Signore, aveva previsto riguardo il mistero del suo divin parto, benché fosse a conoscenza che nulla di quanto egli pensava sarebbe accaduto. Infondendogli coraggio, disse: «Sposo mio, verrò volentieri in compagnia vostra. Faremo il viaggio come poveri, in nome dell'Altissimo, perché il Signore non disprezza quella povertà che viene a cercare con tanto amore. E dal momento che la sua protezione, la sua difesa ci saranno assicurate nella necessità e nel travaglio, riponiamo in Lui la nostra confidenza. E voi, Signor mio, gettate su di Lui tutte le vostre preoccupazioni e tutti gli affanni». Stabilirono subito il giorno della partenza. Giuseppe andò per Nazareth a cercare qualche bestia da soma su cui trasportare la signora del mondo. Ma non poté facilmente trovarla, perché molta gente stava recandosi in diverse città al fine di eseguire l'ordinanza dell'imperatore. Dopo molte accurate e penose ricerche, San Giuseppe trovò un umile asinello. Lo potremmo chiamare veramente fortunato, e lo fu di certo. Fra tutti gli animali privi di ragione, Non solo portò la regina di ogni cosa creata e con lei il re dei re, ma si trovò presente alla nascita del bambino e rese al suo creatore l'ossequio che gli uomini gli negarono. Prepararono così il necessario per il viaggio che durò 5 giorni. I celesti viandanti portarono le stesse cose che avevano disposto nel primo viaggio alla casa di Zaccaria. Pane, frutta, alcuni pesci che costituivano il cibo ordinario, anzi il più squisito di cui facevano uso. E siccome la prudentissima Vergine sapeva per luce divina che avrebbe fatto ritorno a casa dopo lungo tempo, non solo portò panni e fasce per il suo divin parto, ma, passando inosservata, dispose le cose in maniera tale che servissero al compimento del volere del Signore. Lasciarono così la loro casa in custodia ad una persona, perché ne avesse cura fino al loro ritorno. E così giunse il giorno e l'ora di partire per Betlemme. Il fedelissimo Giuseppe trattava già con straordinaria e somma riverenza la sua sposa e, come vigilante e premuroso servo, cercava di accontentarla e di servirla. La pregò con grande affetto di fargli presente tutto ciò che desiderava per soddisfare tutti i suoi bisogni, il riposo, il sollievo e per il compiacimento del Signore che portava nel suo seno virginale. Maria Santissima consolò ed incoraggiò il suo sposo ad affrontare le asperità del viaggio, mentre continuamente lo assicurava della benevolenza che Sua Maestà nutriva verso di lui, per tutte le sue premure, la fortezza e la gioia con cui entrambi, poveri pellegrini, avrebbero via via accettato i disagi del cammino. Prima di partire, la Regina del Cielo si mise in ginocchio e pregò San Giuseppe di darle la benedizione. Giuseppe oppose resistenza, provando difficoltà a farlo per la dignità della sua sposa. Ma ella vinse in umiltà e dolcemente l'obbligò a dargliela. San Giuseppe lo fece con gran timore e riverenza. Con abbondanti lacrime si prostrò a terra e la pregò di offrirlo nuovamente al suo santissimo figlio, di ottenergli il perdono e la grazia divina. Dopo questa preparazione, partirono da Nazareth per Betlemme, nel cuore dell'inverno, circostanza questa che rendeva il viaggio più scomodo e penoso. Ma la madre, che portava nel suo seno la vita, pensava solo a conversare santamente con il bambino divino, rimirandolo nel suo talamo virginale, imitandolo nei movimenti, attribuendogli onore e gloria, più di tutte le altre creature insieme.